che oggi più che mai mi sento più Manuela di Rosa e molto meno Manuela di Stefano. O meglio, per i primi 10 anni della mia vita di relazione coniugale mi sono sentita di Stefano. Diciamo che negli ultimi 7 mi sento molto più di Rosa. Ma noi non la conosciamo né come di Stefano. Appunto. Esatto. Ora ti dico, mi sento più di Rosa. E come non vi aspettate granché, perché come diceva mio figlio, quando ho saputo che venivo qua, mi ha detto: mamma, sono messi proprio male, perché l'hanno chiesto a te. Mio figlio di 10 anni. Allora ho detto: sì, figlio mio, hai ragione, probabilmente sono messe proprio male. Grazie, grazie della stima. Un applauso, Manuela. Comunque, a parte questa parentesi, io non sono un filosofo, sono un medico chirurgo, sono gastroenterologo, quindi mi occupo di ben altro, per cui avrò un taglio molto pratico, perché io sono così costituzionalmente molto pratica anche come formazione. Ripensando un po' a questa relazione, quindi la bellezza della relazione coniugale, un po' mi veniva in mente, ecco, che cos'è la relazione. E in fondo, pensando un po' all'essere umano come creatura, per chi crede o anche per chi non crede, insomma, ripensando un po' all'essere umano, ogni essere umano nasce da una relazione, c'è poco da che dire. Anche se oggi parliamo sempre di più di fecondazione assistita, di fecondazione in vitro, però in ogni caso il frutto della fecondazione poi si sviluppa all'interno di un utero materno, per cui la relazione rimane sempre ben salda. Per cui ogni essere umano nasce da una relazione, prima con la madre e poi, venendo fuori, nessuno si autodetermina, ma l'individualità di ciascuno viene fuori da tutte le relazioni che l'individuo ha nel corso della propria esistenza, della propria vita. E queste relazioni non sono insignificanti o non sono di poca importanza, perché se pensiamo un po' a Epicuro, lui diceva proprio così a mo' di comandamento: uomo, vivi nascosto, pensando che l'autodeterminazione di ciascuno passa solo attraverso se stesso e non da una relazione. Oppure un po' la negazione opposta, un po' in una visione marxista, in cui l'individualità veniva persa nella collettività, no? E quindi anche un po' nella massificazione che oggi viviamo sempre di più. In realtà questi due elementi, cioè ontologicamente l'uomo non si può autodeterminare da sé, ma la relazione proprio ontologicamente sviluppa, permette all'uomo di svilupparsi come persona e quindi di diventare, cioè l'autorealizzazione dell'uomo deve passare necessariamente attraverso le relazioni. Quindi l'uomo vive, si nutre un po' delle relazioni e in chiave appunto relazionale, diciamo che la relazione coniugale è una relazione peculiare, cioè una relazione molto particolare. È la relazione in cui c'è proprio necessariamente una reciprocità, no? È forte. E questa relazione coniugale ha delle sue peculiarità che prescindono da tutte le altre relazioni. Pensando proprio a questo, mi veniva in mente di aver letto tanti anni fa, e poi l'ho ripreso, in Umane Vite, Paolo VI parla proprio della relazione coniugale. E ho cercato di vedere un po' altro, ma nessun altro come Paolo VI, a mio avviso, riesce a parlare della relazione coniugale come ha fatto lui. Perché parla proprio delle caratteristiche della relazione coniugale, dicendo che la relazione coniugale è una relazione pienamente umana, è una relazione totale, è una relazione fedele ed esclusiva ed è una relazione feconda. Ecco, queste a mio avviso sono le caratteristiche, no? Di una vera relazione coniugale. Intanto è una relazione pienamente umana, perché la corporeità dell'uomo, in quanto uomo, quindi mascolinità, e la corporeità della donna, in quanto donna, quindi come femminilità, si uniscono e diventano complementari, cioè diventano una cosa sola. Per cui pensare a volte di scindere la relazione coniugale dall'aspetto sessuale è veramente privare questa relazione di un ambito fondamentale, di un ambito importantissimo. La sessualità è un aspetto fondante della relazione e della relazione coniugale e non può prescindere da questo, almeno all'inizio, cioè dove proprio la femminilità della donna e la mascolinità dell'uomo diventano un tutt'uno, proprio per natura. Ed è importante pensare a questo aspetto, no, della corporeità, che deve essere vissuto appieno nella coppia e che deve essere cercato, deve essere coltivato, perché a volte nelle coppie, andando avanti un po' negli anni di matrimonio, è un aspetto che viene un po' sottovalutato, no? Non si cerca più l'altro nella fisicità, ma si cerca poi di trovare altro. E questo, a mio avviso, è un grandissimo errore, perché l'altro va trovato anche in quest'ambito. Quest'ambito va molto coltivato, soprattutto oggi, in un momento in cui si parla tanto di sessualità e tutto viene ridotto proprio a un atto puramente corporale. Invece per noi donne che viviamo la relazione coniugale è un atto che si deve cercare con grande intenzionalità, perché nell'atto sessuale ben orientato noi vediamo prima il bene dell'altro, poi vediamo il piacere dell'altro, poi il nostro bene ed infine il nostro piacere. Vissuto così, un rapporto sessuale diventa molto pieno e aiuta la coppia veramente a unirsi. Ma non solo proprio nell'atto sessuale in sé, quello che va molto cercato è anche, diciamo, soprattutto per noi donne, ma anche per gli uomini, è coltivare molto la tenerezza. Perché soprattutto andando avanti negli anni, ma anche nelle coppie giovani, è un elemento fondante quello di vivere molto questo aspetto della tenerezza, che non può prescindere l'atto sessuale, cioè essere vicini all'altro teneramente, cercare veramente gli atti di tenerezza. E questo poi andando avanti negli anni, quando uno veramente è molto allenato a cercare nell'altro, no? E a vivere questa tenerezza, aiuta moltissimo le coppie a vivere insieme la vecchiaia. Mi ricordo un passo, dice Colette, che parla molto di una coppia avanti negli anni e proprio di quanto sia importante vivere la tenerezza, no? E che aiuta proprio a accompagnare i coniugi verso la fine, cioè verso la vecchiaia, no? E di farli sentire ancora vivi in questo ricordo di unione forte. E quindi pensiamo molto a questo, no? A coltivare la tenerezza e a coltivare molto quest'ambito, cioè la sessualità. Io, proprio perché sono così, vivo in un ambiente promiscuo come quello dell'ospedale, vivo sempre a contatto con colleghi, uomini, che si lamentano sempre delle loro mogli, che sono stanche, che hanno sempre mal di testa, che hanno sempre 3.500 difficoltà. E quindi poi giustamente loro concludono: ah vabbè, io mi devo sentire, io allora mi sento autorizzato a guardare altrove. E io rispondo che effettivamente forse un briciolo di ragione ce l'hanno, anche se loro si sono impegnati a vivere la fedeltà, quindi dovrebbero cercare di curare il proprio coniuge e di fargli presenti i loro bisogni. Ma questo, diciamo, è un ambito, cioè interroghiamoci ecco su questo, se effettivamente siamo sempre pronte a vivere quest'ambito della sessualità nel nostro matrimonio, cioè vivere sempre questo aspetto e a tenerlo vivo, perché veramente, come dicono molti, la minestra rimestata poi stufa. In realtà non è così, perché se noi nell'ambito della relazione coniugale cerchiamo di vivere questo rapporto con grande allegria e soprattutto proprio con grande trasporto, allora la minestra non è più rimestata.